Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Ethno Chic qui su Radio Città del Capo con Vladimiro e Azul, buonasera. E stasera abbiamo come ospite un musicista, un ricercatore, un musicologo che è Mirko Mungari, a cui diamo il nostro benvenuto e la nostra buonasera. Grazie, buonasera a tutti. E Mirko stasera è qui appunto in veste di ricercatore, di musicista, per presentarci alcuni repertori strumentali della musica della Calabria, giusto? Sì, esatto. Cercherò di darvi un'idea più rapida ma anche più completa possibile di quanto sia complesso anche il mondo musicale della musica tradizionale calabrese, che è molto più complesso di quello che si possa pensare. Veramente si articola in molte varietà diverse, sia sul piano stilistico che organologico. E quindi, insomma, sostanzialmente ci farai sentire vari strumenti, vero? Dal vivo e... Sì, vi farò... E anche esempi che ci hai portato qui in studio, di ascolti. Sì, dunque, cercherò di darvi una idea il più completa possibile di quello che è il grande panorama sonoro della musica tradizionale calabrese, passando dagli stili di canto ad alcuni strumenti che sono veramente tipici della sonorità calabra, come la chitarra battente, la lira, fino a finire poi con lo strumento veramente principe della la musica calabrese, che è la zampogna, anzi le zampogne, perché come cercherò di farvi vedere è un mondo molto complesso quello delle zampogne calabresi. Ce ne sono tantissime e molto diverse tra loro, e anche con origini abbastanza diverse tra loro. E il primo brano è un brano però per chitarra battente. Allora, il primo brano in realtà lo ho scelto per introdurre il discorso del canto. Il canto calabrese è assolutamente peculiare, perché ogni zona, ogni paese, ogni veramente località ha un suo stile di canto particolare, che spesso prende anche nome dalla zona, dal paese in cui si esercita quel particolare stile di canto. Per esempio, questo che vi faccio sentire ora viene da un paese in provincia di Cosenza che si chiama Longobucco, e si chiama proprio stile alla Longobucchisa, cioè alla longobucchese, diciamo così. È un canto a due voci che rientra in quella grande famiglia di canti che nella Italia centrale si chiamano canti a vatoccu, e nella Italia meridionale, in Calabria in particolare, si chiamano di solito canti all'asse pia, all'asce prendi, cioè dei canti in cui c'è la prima voce che lancia la strofa, che viene poi ripresa e variata da una seconda voce, il tutto con il bordone della chitarra battente. Bene, andiamo a sentire questo brano per la chitarra battente. Thank you. Ecco, come ogni cantata che si rispetti finisce a ballo alla fine, anche se questo era un canto in realtà abbastanza triste perché parlava della lontananza di due amanti. Questo era solo un piccolissimo esempio, in realtà, dell'enorme varietà di stili di canto che ci sono in Calabria, che sono veramente una roba sterminata, ma solo per quelli ci vorrebbe un'intera puntata, quindi non posso dilungarmi più di tanto. Sì, perché noi non siamo abituati a pensare, insomma, pensiamo spesso che queste tradizioni siano qualcosa di ancestrale, di scomparso, è rimasto qualche traccia. In realtà, andando sui territori, si scopre che veramente da un paese all'altro, da una vallata all'altra, ci sono ancora, soprattutto nel sud Italia, ci sono ancora delle tradizioni molto vive. Non solo, ma ti posso assicurare che è ancora perfettamente valido quel bellissimo discorso che faceva Bartok sugli alberi del canto, cioè su questi personaggi che sono la memoria del canto, che conservano le melodie, ma soprattutto le strofe, i testi, e sono in grado di costruire, adattare di volta in volta la cantata per la situazione che serve al momento. Quindi non esiste un testo standard, esiste un modulo melodico su cui si costruiscono via via le strofe. Quindi proprio un repertorio vivo, insomma, con molte variazioni. Assolutamente. E il prossimo brano troviamo la lira calabrese e i fischiotti e una tarantella di Siderno, giusto? Sì, allora il discorso della lira è molto bello perché è legato alla riscoperta della musica calabrese. La lira è uno strumento di origine greca bizantina, è stato portato in Calabria sicuramente dai bizantini perché esiste in forma quasi identica anche sia nella Grecia continentale che sull'isola di Creta. Ed sì, è, infatti io ho visto proprio al museo di Atene, ci sono due strumenti molto simili, proprio molto simili, a tre corde con la centrale che fa da bordone, senza tastiera, quindi con le corde che vengono sfiorate dalle unghie della mano sinistra, suonate con un archetto di crine. E appartiene la lira a quella grande famiglia di liuti ad arco, di lire ad arco a tre corde con il bordone centrale, che comprende per esempio il kemençe turco, tutte le lire del Ponto, fino addirittura agli strumenti persiani. La lira, dicevo, si dava per completamente scomparsa, completamente estinta. In Calabria si sapeva che c'era stato questo strumento in età bizantina, ma poi non se ne era saputo più nulla, finché negli anni 70 è stata letteralmente riscoperta dal nulla da alcuni etnomusicologi come Diego Carpitella, per esempio, o Antonello Ricci, che hanno riscoperto nell'area di Siderno, quindi siamo nella media nel medio ionio della provincia di Reggio. Mm-hmm. Un costruttore e suonatore leggendario di lira che si chiamava Giuseppe Fragomeni, detto Peppu Fanarra o Peppi Campu come soprannome, che insegnò a questi, diciamo, ricercatori a costruire e a suonare le lire, e si scoprì che non solo esisteva ancora la lira, ma che era suonata tantissimo da tantissimi altri musicisti, per esempio Trimboli, altri grandi musicisti sia dell'area sidernese sia esattamente dall'altro lato sul Tirreno, nell'area del Poro, nell'area di Tropea, con due stili leggermente differenti. Quindi questo strumento aveva continuato a vivere sotterraneamente e ora viene attualmente studiato, suonato, costruito da una nuova generazione di liutai e musicisti che fanno rivivere questa bellissima tradizione. E questa invece mi pare di capire che è una registrazione un po' storica, perché vedo appunto Gabriele Trimboli e Domenico Macri. Sì, esatto, fa parte appunto di questo lavoro riscoperta che avviene proprio in quelle zone lì, e ancora oggi vengono organizzati dei bellissimi festival anche in cui si insegna la lira ai giovani, addirittura ci sono musicisti che fanno delle sperimentazioni con la lira, un po' quello che poi succede anche con le lire greche. È uno strumento che ha delle grandi potenzialità musicali, e qui suona accoppiato in un tipico accoppiamento con i fischiotti, cioè con i doppi flauti di canna, e qua entra un po' il discorso dello strumento doppio che tornerà dopo un po' con le zampogne, ma non voglio dirvi nulla per ora. Benissimo. Bene. Quindi andiamo a sentire questa lira calabrese. Thank you. È una bella sonata, lo piace a casa, buona. Buona. Una bella sonata, quando suona Alira Kifrischotti. Ma è una cosa speciale. Una cosa speciale. Dicono che è una bellezza. Mamma mia, la Marina. È un amico nostro, dici che suonava. Ecco, non so se avete notato, c'era una persona anziana che ascoltava questi due giovani suonare della musica sidernese. Questa è proprio un'immagine di quella che è la musica calabrese oggi. Questi giovani che stanno riscoprendo questi strumenti, li costruiscono, li suonano e imparano dai vecchi, che sono ovviamente felicissimi di insegnare. Bene, ora sto per dire una cosa forse un po', diciamo, politicamente scorretta, nel senso che finora, non so se ci avete fatto caso, ma c'è uno strumento che è il grande assente da questa musica, che invece è il primo strumento, lo strumento principe, diciamo così, che ci viene in mente quando noi pensiamo ai gruppi di musica popolare del Sud Italia, cioè il tamburello. Nessuno suona il tamburello sulla lira, perché? Bene, il discorso del tamburello in Calabria è un po' delicato. Io poi sono percussionista, quindi ci tengo particolarmente a queste cose qui. Perché? Si tende a mettere il tamburello un po' dappertutto, su qualunque sonata a ballo, diciamo così. In realtà, dal punto di vista strettamente filologico, non è corretto, perché nella musica tradizionale calabrese il tamburello è molto raro, o meglio, viene suonato soltanto in due zone. Nell'estremo nord, quindi nel Pollino Cosentino, al confine con la Lucania, dove viene suonato con uno stile però che è più lucano che calabrese, in realtà sentiremo dopo una tarantella del Pollino, che sono molto lente, ritmate. E poi in realtà la vera patria del tamburello calabrese è l'Aspromonte, la bassa provincia di Reggio, in particolare le vallate grecaniche, dove vivono ancora questi discendenti dei greci bizantini, che sono grandi suonatori di zampogna, grandi ballerini e grandi suonatori di tamburello. Quella è l'unica zona dove veramente il tamburello ha una vera, diciamo, sì, mi pare anche che ci si parla di appunto del stile alla reggitana, no? Di suonare il tamburello, no? Sì, che è uno stile particolare ed è molto bello come sia completamente diverso per esempio dallo stile messinese, che è completamente diverso, una tecnica assolutamente diversa. Lo stile reggitano, che poi in realtà varia da vallata a vallata, ogni vallata, ogni paese ha il suo stile di ballo e il suo stile di tamburello, quindi si può facilmente riconoscere un suonatore da dove viene, diciamo così, semplicemente sentendolo suonare. Ma appunto il tamburello è tipico di Reggio, nei balli della Calabria centrale, della Sila, delle serre, il tamburello di per sé non si usa in realtà, anche se oggi poi è stato introdotto un po' come l'organetto, che non è uno strumento calabrese, l'organetto ha due bassi, è una cosa che è stata introdotta dopo, che ora si è abbastanza diffusa, però in realtà non è uno strumento tradizionale calabrese, bisognerebbe dire questo. Altri strumenti di cui bisogna dare un minimo di conto, uno l'avete già sentito, sono i fischiotti, cioè i doppi flauti. In Calabria il flauto è quasi sempre doppio, in realtà. Ci sono dei piccoli flauti singoli, pastorali, ma il tipico flauto che si suona è doppio. E la cosa simpatica è che questi fischiotti, cioè questi flauti doppi fatti di canna e non di legno, riprendono esattamente le diteggiature dei due chanter dei vari tipi di zampogna, cioè della zampogna a chiave e della zampogna a paru, quindi vengono proprio costruiti anche come strumenti didattici. Si impara a suonare la zampogna suonando il doppio flauto e poi si passa. Certo, uno strumento, esatto, di passaggio. Sì, anche se ha tutto un suo, diciamo, vero e proprio repertorio, per esempio con i fischiotti nel suono sidernese, con la lira, scusate, nel suono sidernese, però in realtà vengono, diciamo, considerati strumenti un po' giocattolo, un po' didattici, un po' effimeri. Un altro tipico strumento effimero, per esempio, della Calabria centrale è la frischettara, cioè il flauto fatto con la corteccia dei polloni di castagno, che viene staccata in primavera da questi rami verdi che crescono alla base dei castagni, gli si fa una tacca con una zeppa, ed è molto bello perché è un flauto armonico, senza fori, quindi suonato solo con la spinta del fiato e praticamente chiudendo l'estremità. E credo, sì, Vladimiro, quasi tu l'esperto, che ci sia qualcosa di simile in Ungheria, vero? Dei flauti simili da quelle parti. Là. Insomma. Beh, la usano anche i flauti proprio usando le foglie di alcuni. Sì. Così è un tipico tipici strumenti pastorali. Sì. Un altro strumento su cui devo assolutamente spendere quattro parole, l'avete già sentito, è la chitarra battente. La chitarra battente è un altro strumento tipicamente calabrese, anche se compare anche in altre tradizioni, si trova nel Cilento, nell'Italia centrale, ma quella calabra è molto particolare, è diversa dagli altri modelli. noi siamo abituati a vedere oggi suonare delle chitarre battenti che hanno in genere 5 corde doppie, praticamente come le chitarre barocche. Quello è un modello barocco, appunto, di chitarra battente che però monta le corde d'acciaio, quindi ha un suono molto robusto, che appunto deriva direttamente dallo strumento barocco, che è diffuso in parte nell'alta provincia di Cosenza e che è stato poi il modello anche per le altre battenti, per esempio quella cilentana. In realtà nell'area centrale della Calabria, nelle Serre Catanzaresi, si suona un tipo diverso di chitarra battente che è molto interessante perché ha 4 corde, e non 5, di solito singole, più raramente doppie, e uno scordino, cioè un piccolo bordone, una piccola corda, il cui pirolo viene infisso nel manico al settimo tasto, che quindi dà sempre la stessa nota. E l'accordatura di queste 4 corde è tale da ottenere lo stesso incrocio di scale che c'è sulle canne melodiche della zampogna Paru, di cui dirò qualcosa dopo. Quindi si può vedere la chitarra battente come uno strumento che riprende, diciamo così, in maniera un po' più raffinata lo stesso modello armonico e melodico della zampogna. Di solito si dice che la zampogna è più lo strumento dei pastori, della gente più dell'entroterra, invece la chitarra battente, che è anche un tipo di costruzione diversa, un po' più raffinato, non ha bisogno del tornio ma di una certa arte liutaria, del piegare le fasce eccetera eccetera, è più strumento da contadini, si dice così. Però in realtà sono due strumenti che dal punto di vista musicale sono equivalenti, hanno le stesse identiche potenzialità melodiche ed armoniche. E introduciamo allora queste varietà di zampogne calabresi proprio con la soldolina e cosentina. Esatto, cominciamo proprio dal nord. Questa era una tarantella del Pollino eseguita su una surdolina, che è appunto un tipo di zampogna. Raccontaci un po' come... Allora, la surdolina ci introduce proprio da nord nel rutilante mondo delle zampogne calabresi, che sono molto variegate, come vedremo. La surdolina è una piccola zampogna, è grande, veramente lunga, dai 20 ai 35 cm al massimo, è veramente piccolissima, di solito ha due più... raramente 3 bordoni e montance semplici, clarinetti, che infatti gli danno questo suono molto fino, molto morbido ma anche molto penetrante, e ha due caratteristiche, diciamo così. Una è quella di non avere il foro per il pollice sulla canna destra, ha solo 4 fori, e l'altra è quella di avere la canna sinistra zeppata, tappata in fondo. Questo significa che quando il suonatore chiude tutti i fori con la mano sinistra ottiene il silenzio, lo stoppato, e questo stoppato dà un ritmo particolare alla sonata, che è in genere, come avete potuto sentire, piuttosto lenta, molto scandita, un modo di ballare molto, molto lento. Da questa specie di suono zoppo un po', che è tipico di questo strumento. La surdolina è uno strumento che si suona tutta l'area del Pollino fino alle prime propaggini settentrionali della Sila, cosentina e catanzarese, ed è tipica anche delle comunità albanesi di Calabria, che la chiamano caramuncia. E appartiene alla prima grande famiglia di zampogne calabresi, che sono le zampogne del nord, quindi zampogne a canne pari e ad ancia semplice con canna sinistra zeppata. La stessa surdolina, o meglio un modello leggermente più grande, suonato nel catanzarese dà un tipo di ballo di sonata completamente diverso. Mentre nel Pollino la sonata era molto lenta, molto, molto ritmata, nella zona centrale del catanzarese, in particolare nell'area di Conflenti, sì, si suona talmente veloce che non si riesce a suonarci sul tamburello. Adesso vi faccio sentire un'altra tarantella su un altro tipo di surdulina, però suonato nello stile catanzarese, che è completamente diverso. Che sarebbe questa surdulina di Santo Trunzo. Esatto, di questo grande suonatore che è stato Santo Trunzo. Se ci spostiamo leggermente più a sud, appunto nella zona di Conflenti, la surdulina diventa molto più grande, rimane più o meno lo stesso strumento, sempre ad ance semplici, con la canna sinistra zeppata, ma prende un timbro completamente diverso perché diventa uno strumento di grandi dimensioni, lungo anche 40-50 cm, che è appunto la conflentana, che è quella che voglio farvi sentire adesso, suonata sempre da questo leggendario suonatore, Santo Trunzo. Santo Trunzo. Sì. Anita. Thank you. Siamo sempre alla Radio Città del Capo con Etno Chic e questa è la Zampogna. Sì. Questa è una Zampogna conflentana, così detta. Domanda, Zampogna, cosa significa? Zampogna viene da una parola latina che è sinfonia, che a sua volta ha le radici ovviamente nel greco, sinfonè, cioè nel suonare insieme, nel produrre più suoni contemporaneamente, proprio perché la Zampogna ha questa caratteristica che nella musica calabrese la rende anche uno strumento un po' sui generis, con uno status diverso da quello degli altri strumenti. È lo strumento doppio, lo strumento che produce due o più suoni contemporaneamente, che crea una massa sonora molto ampia. Lo strumento fatto di legno, di canna e di pelle di capra, quindi lo strumento fatto di più materiali e non di un materiale solo come la chitarra battente o come il fischiotto. È lo strumento che riempie l'aria di suono e che viene chiamato sempre al plurale. Il nome può essere i suoni, come nel pollino, cioè i suoni per eccellenza, oppure i ciaramelli, le ciaramelle, la zampogna, ma è sempre al plurale il nome, proprio perché è uno strumento che ha il doppio, il due insito nella sua stessa natura. Sì, quindi è uno strumento che è proprio rappresentativo, anche insomma, quasi che accompagna anche i momenti importanti, insomma, della vita della comunità. Sì, non c'è momento pubblico ritualizzato che non abbia la sua zampogna. Non c'è processione, non c'è matrimonio, non c'è funerale, non c'è evento pubblico, non c'è ballo pubblico, non c'è festa pubblica che non abbia il suo suono di zampogna a solennizzarlo. Ciò non toglie che la zampogna ha anche una, diciamo, dimensione privata. Si suona tutto l'anno, non solo a Natale, come si può pensare. Si suona tutto l'anno in Calabria la zampogna, e a livello privato è lo strumento del ballo, lo strumento della festa, lo strumento che con la sua sola presenza, con la sua stessa sonorità molto ritmica, dà il senso al ballo. Ora, la grande zampogna conflentana, che come già dal suono avete potuto capire è uno strumento di dimensioni medio grandi, dal timbro molto grave, molto scuro, secondo me è un po' lo strumento ponte che ci permette di fare il salto verso la seconda grande famiglia di zampogne calabresi, che sono quelle delle serre. Quindi siamo a sud della Sila, quella fascia di montagne che va più o meno dal sud del Monte Poro fino a tutta la costa sidernese, e sono le zampogne a chiave. Qui la musica cambia completamente. Cambiano le ance, innanzitutto. Non sono più ance semplici, clarinetti, ma sono ance doppie, sono oboi. Cambia il sistema scalare delle canne. Mentre le surduline e le conflentane hanno delle scale che a un certo punto si incrociano tra loro, cioè la canna destra e la canna sinistra hanno dei suoni in comune, nelle zampogne a chiave questo non accade mai. Le due canne suonano in ottava, rigorosamente. La zampogna a chiave in più è l'unica zampogna calabrese che ha il bordone più basso, quindi la nota continua più bassa, intonata sulla tonica, cioè sul primo grado della scala, e non sul quinto grado, come invece hanno le altre zampogne. Tutto questo ci fa capire che sono degli strumenti che sono arrivati in Calabria dopo. Vengono sicuramente dal centro-nord, perché sono molto simili concettualmente agli strumenti che si suonano ancora oggi in Molise o nella Valle della Niene. Sono strumenti di origine probabilmente rinascimentale e sono strumenti che vengono considerati anche dalla mentalità dei suonatori più moderni rispetto alle zampogne del nord della Calabria, diciamo così. E oggi si suonano due taglie principali di zampogne a chiave: la romana, che già il nome ci fa capire più o meno da dove viene, cioè dal Lazio, che è la più piccola, che suona in sol, e la menzetta, cioè la zampogna di mezzo, che suona in fa, che è un po' più grande. Di mezzo perché c'è un terzo modello di zampogna che oggi è diventato rarissimo, perché è molto difficile costruirla, che è la 18 palmi, che è una grande zampogna, un'enorme zampogna in do, che oggi però è quasi completamente scomparsa. Ce ne sono pochissime in giro, sono molto ambite tra l'altro anche dai suonatori, perché non le costruisce più nessuno. Posso svelare la sorpresa? Certo. Oh. Bene, ho portato con me una zampogna a chiave, la mia menzetta in fa. che io confido nel fatto che abbia retto l'accordatura, spero che siate clementi se sì, suona un po', appunto, ci vuole sì. Non solo un poco tempo, ma addirittura a volte ore per essere sì, sì. Avere una accordatura che... buona. Infatti giustamente Mirko prima ci ha lavorato un po' su e adesso lo sentiremo in questa zampogna, quindi accomodati pure. Bene, vado di là. In regia. E intanto, se volete mandare un messaggio, ricordatevi che noi abbiamo un numero della diretta che è... Oddio, non lo vedo più. 348-7649-289. Esatto, se volete mandare degli sms. Vi ricordiamo che abbiamo anche una pagina Facebook, se volete seguirci, che è etnochic-rcdc, che sta per Radio Città del Capo, 947-96-250, da dove ci ascoltate. E adesso Mirko Mungari ci farà sentire a Zampogna. Questo quindi era un brano a ballo, immagino. Aspettiamo che Mirko ha appoggiato la zampogna, adesso si mette le cuffie. Questo quindi era un brano per ballare, mi sembrava. Eccomi, innanzitutto, come temevo, l'accordatura non ha tenuto, però vabbè, siate clementi, non me ne vogliano i puristi all'ascolto, ma vabbè. In realtà dunque l'inizio, la prima parte del brano era una cosiddetta cadenza, cioè un brano solistico che non è inteso prettamente per il ballo, è più proprio un brano virtuosistico per l'incrocio delle mani, poi l'ultima parte invece era una sonata a ballo. La zampogna a chiave però, ora ve l'ho fatta sentire così diciamo da sola, ma è uno strumento che raramente suona così da solo, tranne che in queste cadenze, appunto in questi pezzi un po' diciamo solistici. In genere suona, è il tipico accompagnamento dell'oboe, della ciaramella, cioè dell'oboe solistico che in Calabria si chiama pipita o bifara, che suona spesso in duo, sia le melodie ballabili, sia le... La ciaramella, spiega, è una specie di piffero, no? Sì, è un oboe, un piffero a lancia doppia che ha 7 fori e non 8 come quella marchigiana, la nostra ne ha 7, che viene tagliato nella stessa tonalità della zampogna. Ma una caratteristica tipicamente calabrese è una formazione, diciamo così, bandistica, che si trova soltanto nella Calabria centro-meridionale, che ha un nome curiosissimo, in dialetto si chiama banda pelusa, cioè banda pelosa, banda coi peli. Ora, sull'etimologia di questo termine ho sentito veramente tantissime versioni discordanti, diverse. Si dice che si chiami così perché c'è l'otre della zampogna e le pelli dei tamburi, quindi... sono tutti strumenti che in qualche modo hanno del pelo, ecco, non lo so, ne ho veramente sentite dire di ogni. Lasciamo l'immaginazione. Esatto, lasciamo un po' di immaginazione. Comunque, la banda pelusa che cos'è? È una formazione che nella sua, diciamo, nel suo assetto standard è fatto da una zampogna che fa il bordone armonico, da una ciaramella che fa la parte solistica e da una bellissima sezione ritmica che è fatta sempre da un rullante, una coppia di piatti e una gran cassa. Quindi sì, proprio una piccola banda. Sì, quello che ci viene subito in mente, almeno a me, quando sento le bande pelusa, sono le bande turche. Certo, ovviamente, sì, quella solarità balcanica, chiaro. Esatto, e questa formazione, questa piccola formazione, fatta quindi da 5-6 persone al massimo, supplisce di fatto la banda del paese. Cioè, quando ci sono le processioni, suona e anche suona nelle occasioni festive. Io ora vi ho portato due brani diversi, suonati da due bande diverse. Tra l'altro, il primo, che è più ballabile, vedrete, è proprio un ballo, una suonata a ballo. L'altro invece, che è una processione. L'audio forse non è bellissimo perché sono delle prese dal vivo, ma una registrazione sì, sul campo. Vi dà proprio l'idea di quella che è la sonorità della banda pelusa. Benissimo. We'll be right back. E ora sempre una registrazione della banda Pilusa durante invece il momento della processione. Per Radio Città del Capo, Etno Chic, e continuiamo a parlare di zampogne calabresi con Mirko Mugari. Bene, direi che possiamo fare il salto verso la terza e ultima grande area delle zampogne calabresi. Abbiamo visto quelle del nord, le surduline, quelle delle serre, le zampogne a chiave. Nella Spromonte, quindi nell'estremo sud, nella provincia di Reggio, c'è un'altra zampogna peculiare che si trova tra l'altro anche nella dirimpettaia provincia di Messina, che è la zampogna a paru, cioè a paio, perché ha le due canne melodiche che sono della stessa lunghezza ed è concettualmente abbastanza simile in realtà a quelle del nord, perché anche qui sistemi scalari che si incrociano, quindi canna destra e canna sinistra che hanno delle note in comune e ance doppie, anche se vengono tagliate nel senso inverso rispetto a come si fa sul pollino. Quindi sono ancora delle zampogne del tipo antico, diciamo così, precedenti alle grandi zampogne a chiave. Sono degli strumenti che possono essere di taglia piuttosto grande, ma anche piccolissima. In realtà si costruiscono in qualunque taglio, proprio perché sono, a differenza delle zampogne a chiave, queste sono invece strumenti prettamente solistici che montano l'ancia semplice. Quindi passiamo di nuovo dal suono, diciamo, maestoso, dal suono barocco, al suono fine, al suono più morbido, adatto per come il ballo. Nel nord della Calabria. Sì. Torniamo di nuovo al bordone di dominante e siamo nella grande area culturale grecanica, cioè dei greci bizantini che sono rimasti in alcune vallate dell'Aspromonte, che sono i leggendari suonatori e ballerini, soprattutto calabresi, sono i grandi ballerini, quelli che hanno il vanto di saper ballare meglio di tutti, e il ballo per eccellenza è il ballo sulla zampogna. E qui, vi dicevo prima, è l'unica area dove veramente c'è una tecnica, una tradizione autoctona del tamburello, che si suona sulla zampogna paro, che è essenziale per il ballo. Non si può ballare se il tamburellista non è abbastanza bravo, se suona male i ballerini non riescono a ballare. E ogni vallata, ogni paese ha il suo stile, sia per suonare la zampogna, sia per suonare il tamburello, sia per ballare. E io chiuderei la nostra serie di ascolti proprio con una sonata a ballo sulla zampogna a paro. Ci sarebbe da dire che c'è un altro tipo di zampogna in questa zona che si chiama zampogna alla moderna, che non è altro che una piccola zampogna a chiave, senza la chiave perché non ce n'è bisogno, che monta ance semplici. Quindi è un modello che è stato rifatto, diciamo così, su quelle arrivate dopo. Ma la zampogna tipica è quella a paro, che adesso vi facciamo sentire. Sì, sicuramente partiamo con questo e facciamo subito i saluti in modo da non tagliare cose. Okay. Ringraziamo molto Mirko Mungari. Grazie a voi. E Azul, io Vladimiro, vi salutiamo tutti. E vi aspettiamo settimana prossima. Buona ciao. Serata.